falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Sono passati 30 anni esatti, ma per i cittadini di Verona e per i tifosi del Verona sembra ancora ieri, perché i campionati non è che li vincono solo la Juventus, il Milan, l'Inter, cioè le squadre delle grandi città, le squadre miliardarie. Una volta succedeva anche che qualcuna vinceva il campionato a sorpresa, e stiamo parlando del campionato 84-85, in cui la squadra dell'Hellas Verona conquista lo scudetto ed entra nella storia. Bene, tra i pali di quella squadra mitica c'è un ragazzone che ha il naso grosso, i capelli a caschetto, si chiama Claudio Garella, e tanto per non farsi mancare niente, questo Claudio Garella ne vincerà un altro di scudetto a Napoli, il Napoli di Diego Armando Maradona. Oggi Garella è un dirigente sportivo, ma non potete neanche immaginare di quale squadra. Adesso vi raccontiamo tutto. Para questo! Bellissimo tiro! Il portiere salva la sua porta! Questo enigmatico Müller avrà anche un corpo da titano, ma ha l'agilità di un gatto! Non è possibile! Un corpo da titano, l'agilità di un gatto? Beh, stiamo parlando di un cartone animato, il mitico Holly e Benji, che in realtà non ha molto a che fare con il calcio reale, però calza bene per descrivere questo fortissimo portiere. Corpo da titano, agilità di un gatto. Claudio Garella, classe 55, 1,84 per 80 kg, quindi per essere un calciatore potremmo definirlo tranquillamente un armadio. Claudio è di Torino. Bene, se sei di Torino, se sei bravo con il pallone, ci sono due strade, la Juve o il Toro. A Claudio tocca il Toro, a cui approda a soli 18 anni, dopo 3 anni di giovanili. Fa il portiere di riserva e il titolare è uno da cui c'è solo da imparare, Luciano Castellini. La rimessa di Capello, passaggio ad Anastasi, al limite, alla posizione di mezzo sinistro, adattasi Lombardo, cerca di liberarsene, poi fa partire un tiro che Castellini blocca in tuffo, buttandosi sul palo di destra. Parata di Castellini, già applaudito nel corso dei primi 45 minuti di gioco. Il pallone forse non era indirizzato nello specchio della rete, ma il portiere Granata è intervenuto e, ripetiamo ancora, con un bellissimo volo sulla destra ha bloccato il pallone. Il mitico Luciano Castellini, che rimane tra i pali di quel Torino per 8 anni. Nel 76 vince anche un grande scudetto con il Torino di Gigi Radice. Per Garella non c'è posto, bisogna andare via, altrimenti si perde l'occasione della vita, perché nel calcio si invecchia in fretta, bisogna dimostrare subito il proprio valore. Così, dopo aver giocato almeno una partita in Serie A contro il Lanerossi Vicenza, Claudio Garella viene ceduto al Casale in Serie D. La stagione successiva viene promosso in Serie C e Garella segna anche un gol su rigore. Poi, dopo un anno a Novara, arriva a una squadra blasonata comunque, che è la Lazio. Garella intanto non è che trovi molto spazio. Nella prima stagione lui è la riserva di Felice Pulici, che era quello che aveva vinto lo scudetto, quello che abbiamo raccontato, quello di Maestrelli. L'anno dopo comincia a giocare, gioca 29 volte, però ci sono anche prestazioni discutibili. Per esempio prende 6 gol in Coppa UEFA contro il Lens. I tifosi cominciano a contestarlo e gli affidano anche un soprannome non molto lusinghiero, Paperella, e addirittura Beppe Viola, il grande Beppe Beppe Viola conia un neologismo per definire le sue papere, le chiama le garellate. Purtroppo l'ho sbagliata, l'ho fallita, perché quell'anno lì ero veramente troppo giovane. Io mi ricordo che il direttore sportivo allora della Lazio era Janic, che era un uomo. Gli ho detto: voi mi mandate in Serie B, ma io tornerò a giocare in Serie A e farò dei grandi campionati. E così Garella trascorre 3 stagioni a Genova, nella Sampdoria, che allora milita in Serie B. Acquisisce una esperienza che gli manca, diventa padrone della sua area. E i tifosi questa volta cominciano a affezionarsi a lui, anche se non rappresenta, diciamo, l'ideale del calciatore elegante. Io ero un po' controcorrente, portavo i capelli lunghi, nessuno mi ha mai detto niente, vestivo con i pantaloncini corti. Tante volte lo facevo anche apposta, perché siccome mi criticavano, io continuo così perché mi sento bene così. Garella è molto agile, anche se è alto e robusto, vola tra i pali, ha una tecnica tutta sua e soprattutto para come gli capita, con le mani, con la schiena, con il sedere, e poi usa bene i piedi, tantissimo. Da un portiere ci si aspetta sempre che si tuffi mani in avanti, invece lui si sdraia a gambe aperte, respinge la palla con il tallone, con lo stinco, con il ginocchio, e la devia sempre molto lontano, che è la cosa più importante quando un portiere deve respingere un pallone. Ma qui adesso è una favola quella che paravo solo con i piedi, io paravo un po' con tutto, questo sì, anche con le mani. A fine stagione è ancora il momento di fare le valigie. In quegli anni ha fatto dimenticare il suo soprannome e quindi lo chiama una squadra di Serie A. Certo, non una squadra di prima fascia. In quegli anni c'è l'asse Milano-Torino a contendersi il primo posto. Beh, è un outsider. Non è neanche la Roma, che nell'83 ha vinto il campionato. La squadra che chiama Garella è una squadra di provincia, è il Verona. Il Verona è allenato da Osvaldo Bagnoli. La squadra è appena tornata in Serie A, si preparano anni di sofferenze, anche perché nelle squadre di quel genere, insomma, il portiere deve fare gli straordinari e lui si aspetta di dover difendere la porta con i denti per evitare la retrocessione. Ma il colpo d'ala arriva quando te lo aspetti meno, e nel caso di Garella dobbiamo ancora capire con quale parte del corpo verrà fatto questo colpo. Io mettevo i piedi, e i piedi io sapevo metterli nella maniera giusta e respingevo. Io ho fatto anche una parata in rovesciata, se per quello. Con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani. C'è qualcuno che va alla messa e si fa anche la comunione, e poi se vedo un marocchino per strada vorrebbe dargliele con un bastone, ma a questo punto hanno trovato un muro duro, molto molto duro, ma a questo punto hanno trovato un muro duro, molto molto duro, e siamo noi. E siamo noi, e siamo noi, oh yeah, e siamo noi. Il Falco e il Gabbiano torna tra poco, qui su Radio 24. Il Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Claudio Garella, un portiere. Già il portiere è un ruolo particolare e si dice che i portieri siano diversi dagli altri. Bene, Garella è ancora più particolare degli altri, sia per impostazione fisica che per il suo look e anche per la sua tecnica decisamente diversa dalla norma. Abbiamo lasciato Garella in una squadra neopromossa, una squadra di provincia, l'Hellas Verona. Quindi una bella sfida, perché in quegli anni gli attaccanti nelle altre squadre non mancano, sono gli anni d'oro del calcio italiano, non arrivano le seconde linee come adesso. Alla Juve c'è Platini, all'Udinese c'è Zico, alla Roma c'è Falcao e poi c'è Socrates alla Fiorentina, ci sono i grandi tedeschi dell'Inter, Matteus, Klinsmann, e poi c'è Maradona al Napoli. E quindi questo è definito il campionato migliore del mondo, e in quegli anni lì la definizione è effettivamente azzeccata. c'erano i più forti giocatori del mondo in Italia. E per noi portieri era anche un problema, eh? Era anche un problema. Era un problema perché ogni punizione, ogni calcio d'angolo, palla da fermo, questi qui erano veramente molto forti, molto molto forti. Anche l'allenatore è un allenatore non blasonato. In quegli anni i più grandi sono, non so, Lidolm, Trapattoni. Questo è un signore che arriva dalla Bovisa, il quartiere di Milano, classe 35, Osvaldo Bagnoli, detto l'Osvaldo. Prende in mano la squadra nel campionato di Serie B, ottiene la promozione. È un tipo semplice, un anticonformista, non sembra neanche un allenatore. E intanto non ha la giacca e la cravatta, ha sempre un dolce vita blu. Non parla molto sia con i giornalisti che con i giocatori. La stampa, che è sempre pronta a taranciare giudizi, lo definisce un po' antipatico. In realtà è un atteggiamento di basso profilo, non certo per superiorità o per arroganza, semplicemente perché è fatto così. I suoi giocatori questo modo di vivere la vita lo recepiscono subito e lui mette loro al centro di tutto. Il progetto tattico, io quando penso a quando mi fanno certi discorsi come me facevano allora, io anche a Coverciano una volta mi parlarono se facevo il pressing o qualcosa, io dico, non so cosa sia il termine pressing. Sembrava che io volessi prendere in giro la gente e invece io mi basavo molto su quello che erano il giocatore, cioè le mie esperienze da giocatore. Io volevo giocare mezzala quando ero giocatore. E se mi mettevano a fare un altro ruolo non mi sentivo a mio agio, perciò una delle cose che avevo capito è che mettere il giocatore nel ruolo dove vuole giocare lui sicuramente renderà sicuramente di più, e mi sono basato su queste esperienze. Eh beh, l'uovo di Colombo, ancora oggi ci sono allenatori che questa cosa non la capiscono. Un calciatore gioca meglio se lo lasci nel ruolo che lui preferisce. È una filosofia spiccia, è una filosofia essenziale, però in realtà si trasforma in una grande organizzazione di gioco. Il Verona disputa due campionati in Serie A e la retrocessione è ben lontana, perché il Verona arriva una volta quarto e una volta sesto. Garella conquista un posto nel cuore dei tifosi, non c'è quella pressione che esiste nelle città come Milano e Torino, si può uscire, i giocatori non sono assillati. Insomma, poi Verona è una città meravigliosa e di grande, come dire, umanità, di grande tranquillità. In più i riflettori della televisione in provincia, come dire, fanno una luce più bassa. Mi ricordo la prima riunione, Bagnoli ci disse: quest'anno ho paura di retrocedere. E noi in quelle parole capimmo che lui aveva grande fiducia in noi. Certo, nessuno pensava di vincere lo scudetto, questo è chiaro, però piano piano ci accorgemmo della nostra forza. Quindi il campionato 84-85 inizia così, con Bagnoli che dice di temere la retrocessione, ma non ci crede neanche lui. Però certo, da qui a parlare di scudetto il passo è molto lungo. Intanto sono arrivati gli stranieri 4 anni prima e naturalmente il Verona non è una squadra dalle possibilità economiche smisurate come le grandi squadre di cui abbiamo parlato prima. Però insomma, dietro c'è un tedesco molto tosto che gioca con i calzettoni abbassati, si chiama Hans-Peter Briegel. Davanti c'è un giovanottone danese che si chiama Preben Elker Larsen, conosciuto come Elker. Quindi Briegel e Elker sono i due stranieri, perché in quegli anni se ne possono schierare solo due. Intanto Bagnoli comincia a raccogliere i frutti del lavoro fatto nei campionati precedenti e la sua squadra inizia a giocare un calcio veloce, spumeggiante, e così il Verona comincia a trovarsi nei quartieri alti della classifica. Il raddoppio da un calcio di punizione di Gennaro, lungo per Elkier, finta di Elkier che sposta Pioli e poi va via di potenza in velocità. Pioli tenta anche lo sgambetto, non ci riesce, supera anche Favero e mette sul secondo palo. 2-0, vedete la gioia di Elkier, in contrapposizione invece la calma serafica di Bagnoli e il nervosismo invece accentuato di Trapattoni. La calma serafica di Bagnoli comincia a dare i suoi frutti. Alla quinta giornata il Verona batte 2-0 la Juventus. Il secondo gol lo fa Elker, è un gol mitico perché lo fa dopo aver perso una scarpa. Sono anche questi episodi che poi diventano leggende, esaltano una città intera, la città che abbraccia la squadra di Bagnoli e l'accompagna in una cavalcata che porta il Verona a una incredibile vittoria. L'automobile, beato chi già ce l'ha, è quella di papà. Oggi è sabato, domani si dormirà, sogni di gloria. Beat, beat, cos'era il beat? Una scuola e una città. Beat, beat, Verona, beat. Pugno in tasca e vanità. Bagnoli, sei campione d'Italia e non mi dire che non te lo meriti, eh? Ma ce lo meritiamo tutti. Quando pensi di aver vinto questo scudetto? Ma ci sono stati tanti momenti, però penso che il momento più ci siamo resi conto di averlo vinto è stato Torino con la Juventus. Senti, perché il Verona ha vinto il campionato d'Italia? Ma forse perché ecco che arrivano i due ragazzi, guarda. Ed erano gli anni delle mitiche interviste di un Galeazzi leggermente più magro di oggi, che si buttava in campo e tra champagne e feste carpiva le prime dichiarazioni. E qui c'è un Bagnoli ancora sconvolto da questo scudetto, ma insomma si sente che è felice lui e tutta la città di Verona. È una città che vince uno scudetto con un numero effettivi tra i 15 e i 16 giocatori, come capitava in quegli anni. C'è addirittura una formazione tipo, oggi non si parla più di formazione tipo, allora c'era Garella in porta, poi c'era il libero che era Tricella, c'era Fontolan in difesa, poi c'erano Ferroni, Marangon, poi c'era Brigel che giocava tra difesa e centrocampo con i suoi calzettoni abbassati che segna 9 reti, sulla fascia c'era Fanna, poi c'erano due centrocampisti, uno con i piedi più ruvidi ma eccezionalmente forte nel bloccare il centrocampista avversari che era Volpati e uno più raffinato che era Di Gennaro. Davanti due attaccanti completamente diversi, il grosso, grande grosso Elker e il piccolo e sgusciante Galderisi, nano Galderisi, più 4-5 riserve. Questi giocatori diventano gli eroi di una città e Claudio Garella ha la possibilità di assaporare il primo colpo d'ala della sua carriera. Quando giocammo l'ultima partita a Bergamo, veramente lì ci accorgemmo che avevamo vinto lo scudetto, perché fino al fischio finale ancora eravamo un po' così. Dicevamo che sì, lo vinciamo, però era così grande il sogno che pensavamo fosse veramente solo un sogno. Si posano i riflettori su Verona e allora le grandi squadre arrivano a dare un'occhiata ai campioni che hanno prodotto questo straordinario scudetto. E Garella viene notato da un'altra squadra che lo scudetto non l'ha ancora vinto, ma lo vuole vincere da anni, è il Napoli. Il Napoli ha acquistato Bruno Giordano dalla Lazio, ha acquistato Salvatore Bagni dall'Inter e sta creando una squadra forte attorno alla sua stella, Maradona. E per uno scherzo del destino Garella viene chiamato per sostituire proprio quel Luciano Castellini che gli aveva chiuso le porte da titolare a Torino. E ora Garella arriva a Napoli con uno scudetto in tasca. Ha cambiato anche soprannome, non c'è più Paperella, ora è Garellic. Garellic è nato a Verona, il primo anno del Verona, lo coniò un giornalista dell'Arena. L'ho preso da Diabolik, l'ho preso Garellic perché lui dice che mi nascondevo e facevo paura agli avversari e paravo tutto. Maradona arriva a Napoli nell'84, pagato una cifra esorbitante per quei tempi, 15 miliardi di lire, ma quell'anno il Napoli è solo ottavo, insomma si sta ancora creando l'amalgama che porterà il Napoli allo scudetto, anche perché è l'anno del Verona. L'anno dopo va un po' meglio, il Napoli arriva terzo, lo scudetto comincia a diventare un sogno, l'allenatore è un altro tipo strano che si chiama Ottavio Bianchi. Questa squadra viene creata chiaramente attorno alla figura di Maradona, ma un altro altro soggetto particolare Garella, che ha la sua inconfondibile maglia bordeaux con le maniche nere e si insedia stabilmente tra i pali della squadra napoletana. Il Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Claudio Garella, che in questo momento diventa portiere del Napoli di Maradona dopo aver vinto un inaspettato e fantastico scudetto con il Verona di Osvaldo Bagnoli. Si tuffa in una realtà completamente diversa, in un Napoli che lo scudetto non è che lo può vincere come ha fatto il Verona. Il Napoli lo scudetto lo deve vincere e Garella lascia Verona per scendere al sud. Lascia proprio un po' malincuore la squadra del Verona, però voglio fortissimamente andare a Napoli perché io volevo giocare col più grande giocatore di tutti i tempi. Sì, questa è una squadra costruita al servizio di Maradona e i giornalisti non cercano Ottavio Bianchi, cercano Diego Armando. A lui è concesso tutto, può allenarsi, può non allenarsi, può arrivare dopo. I giocatori sono dei comprimari adatti ad esprimere il gioco che lui suggerisce e finalizza. Claudio Garella rimane fuori da queste logiche, è lì tra i pali ad aspettare. Però nelle squadre di vertice succede una cosa completamente opposta. Magari ti arriva un tiro solo in una partita, però quel tiro lo devi parare. Io c'ho in cornice questa uscita su Tutto Sport dell'avvocato, quando gli chiesero di Garella, lui dice: è il più forte portiere del mondo senza mani. Prendere una battuta dall'avvocato Agnelli vuol dire aver fatto qualcosa di importante nel mondo del calcio. Lui faceva solo battute alle persone importanti. Beh, Garella a Napoli è aiutato da una difesa fortissima, ci sono Bruscolotti sulla destra, poi c'è Ferrario e poi c'è un diciottenne che fa capire subito di essere un campione, Ciro Ferrara. Garella non ha cambiato il suo stile, ma quando le cose vanno bene, invece che le garellate, si parla di garellic, e quindi è veramente una saracinesca, anche se ogni tanto torna qualche indecisione, come quando in un Fiorentina-Napoli fa un'uscita avventata e dalla metà campo Paolo Monelli lo beffa con un pallonetto. Giordano prende una traversa, Bersellini manda in campo Monelli che segna subito un gol da metà campo con Garella fuori posto, un gol da incorniciare. A volte lo vedono scappare dall'area e correre sotto la porta avversaria per un calcio d'angolo e lui si vanta di essere uno dei primi portieri a tentare l'arrembaggio finale anche a costo di lasciare la porta sguarnita. Lui è fatto così, non gli importa essere a San Paolo di Napoli davanti a 100.000 persone oppure nel campetto dietro a casa. Per lui il gioco del calcio è sempre lo stesso, l'entusiasmo con cui scende in campo è lo stesso di quello di un ragazzino che inizia a tirare i primi calci un pallone. Con questo entusiasmo Garella affronta il campionato 85-86 nella stessa squadra di colui che lui giudica, e lo giudicano tutti, il più forte giocatore del mondo. Campionato di Garella a Napoli non è così esaltante come si può pensare, la squadra è ancora in costruzione e il risultato è un terzo posto che qualifica la squadra per la Coppa UEFA, anche perché in quegli anni solo la prima andava in Coppa dei Campioni, che non si chiamava ancora Champions League, e questo scudetto per il quale Corrado Ferlaino sta investendo molti soldi fa ancora fatica a arrivare. D'altra parte, insomma, una volta le squadre si costruivano in un altro modo, c'era anche il vivaio, oggi ci sono club come il Paris Saint-Germain o come il Manchester City di qualche anno fa che non fanno altro che prendere i campioni che costano di più, magari assemblando grandi squadre senza un'anima. Quel Napoli l'anima ce l'aveva, e come. Diego, allora è come quel giorno Città del Messico? un pochettino, però ancora no, non possiamo alzare la coppa. Senti, il pubblico è impazzito, si sente campione d'Italia. Sì, ma dobbiamo ancora lottare come abbiamo lottato oggi con una Juve grandissima. Per quanto riguarda questo Napoli, merita ampiamente, avete avuto paura? No, no, in nessun momento, perché sapevamo che la Juve era forte e abbiamo giocato contro un squadrone. Eh sì, al San Paolo ogni domenica esplode una festa. Questo è un campionato che viene festeggiato già in anticipo. Insomma, è una cosa pericolosa, si rischia di gufare, ma tutto il popolo napoletano questa volta sente che è la volta buona e sugli spalti si fa sentire. Con le note di assurdato innamorato, la curva sud accompagna le vittorie della squadra di Bianchi, che con una giornata d'anticipo conquista il suo primo scudetto. È il primo scudetto di una squadra del sud. Napoli esplode. Signori, siamo giunti al 44 minuto e 41 secondi, quindi mancherebbero ed è finita, il Napoli è campione d'Italia. Sono le 17 e 42 del 10 maggio 1987, una data storica nelle vicende. Sì, Ameri ha ragione, questa è una data storica per tutto il calcio italiano e per una città come Napoli, che per generazioni aveva riversato amore nei confronti dei suoi giocatori, dalla Napoli di Achille Lauro con Altafini e Sivori, andando avanti nei decenni fino a questo momento atteso da quasi 80 anni. E Garella di scudetti ne ha già vinto uno, è l'unico che può fare il bis, e quindi diventa una certezza, anche se non ha abbandonato il suo stile poco convenzionale, è un vincente. Quando i risultati arrivano, la gente può dire quello che vuole. Verona fu una grande gioia, ma molto contenuta. Credo che tutti i napoletani hanno fatto pazzia, persino quelli che non c'erano più. Quando misero lo striscione al cimitero, Guagliore, non sapete quello che vi siete persi? Credo che abbia fatto epoca questo striscione. Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto, chissà? Chi se so paticiente, pa chi se fetiente, se tengano l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma la dinte voi state a pagare, e voi chissate se stanno a spassare. A proposito, tengono un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date con forte lavoro, Eminenza vi bacio e vi imploro, chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia che è disse caffè. La stagione successiva potrebbe essere l'anno del bis, perché la stagione inizia bene, però sta crescendo anche un'altra squadra destinata a fare epoca, è il grande Milan di Sacchi. Proprio questo Milan va al San Paolo per uno scontro diretto il 1 maggio del 1988 e va a vincere 3-2 in trasferta, garantendosi la via spianata verso uno scudetto. Mancano ancora due giornate, ma per Claudio Garella è già tutto chiaro. Ma certamente sono una grande squadra, aiutate da un pizzico di fortuna, credo che non abbia rubato niente nell'arco del campionato. Peraltro tutto non è perduto, ovviamente. No, non c'è più niente da fare, credo. Credo che questa squadra non possa perdere punti. Eh sì, Claudio Garella non è un calciatore tradizionale e dichiara apertamente la sconfitta contro ogni regola di diplomazia, lascia trasparire le sue emozioni. La squadra quell'anno non è più compatta come l'anno precedente e naturalmente non può essere la colpa di Maradona, in realtà è merito del Milan quella flessione del Napoli, però qualcuno deve pagare, e quindi alla fine della stagione non vengono confermati alcuni giocatori, anche ci sono delle vittime illustre come Bagni, come Giordano, c'è una piccola rivoluzione e inizia un'epurazione, tra i giocatori ceduti c'è anche Claudio Garella. Qualcuno doveva pagare, ma giustamente nel calcio ci sta, io e altri giocatori, altri miei compagni andiamo via, niente. Garella lascia la Serie A, va a giocare in Serie B con l'Udinese, poi una stagione a Avellino, alla fine dice basta. Beh, sembra una favola finita male, perché lui scompare dalla scena calcistica un po' troppo rapidamente e soprattutto in quel momento per lui non ci sono posti da dirigente o da allenatore in qualcuna delle squadre con cui ha ottenuto grandi risultati. Sembra sia finito tutto. E invece non è così, perché lui è fedele al suo personaggio di persona semplice, al di fuori degli schemi preconfezionati del mondo del calcio. Così lui torna a casa nella sua Torino e si dedica a piccole squadre di dilettanti, il Citturin, il Pecetto Torinese, e poi approda come allenatore e dirigente sportivo in una società che si chiama Barracuda. Avete capito proprio bene, Barracuda. Sì, anche se dicono che i portieri non sono bravi come allenatori, però vediamo di sfatare questo tabù. La squadra si chiama Barracuda, è la seconda categoria, una categoria dilettantistica. Io sono responsabile della prima squadra, noi viviamo di pane e calcio sempre. Come faccio la domenica a stare seduto sul divano? Non posso, io devo andare su un campo di calcio, qualsiasi campo di calcio sia. Beh, una grande passione quella di Garella, una passione che magari lo porta lontanissimo dai riflettori, ma sempre vicino al campo di calcio. Magari un po' appesantito oggi, ma a sentirlo parlare c'è ancora un entusiasmo incredibile nelle sue parole, e sono le stesse parole che riesce a trasmettere ai giocatori che allena. Guarda, il calcio dilettantistico piemontese è ad altissimi livelli. Si parla di calcio dilettantistico, di calcio professionistico, questo è chiaro, però il calcio è il calcio, cioè il calcio è uguale dappertutto, il calcio è uguale dove l'ho fatto io, dalla nazionale fino alla terza categoria. C'è un campo, più si sale è più bello, magari meno si scende è più brutto, ma c'è un campo, c'è un pallone. Eh sì, alla fine il calcio è una cosa abbastanza semplice: c'è un campo, ci sono due porte, ci sono 11 giocatori, un arbitro, oggi ce ne sono 7-8, ma non è quello che conta. E per un campione che ha vinto due scudetti, un campione che ha avuto gli elogi dell'avvocato Agnelli e che ancora oggi viene ricordato e citato quando qualche portiere fa una parata non convenzionale, e il concetto che il calcio è fatto di due porte e un pallone è fondamentale. E oggi lui vuole essere d'esempio per i ragazzini che allena e che spera possano condividere le stesse gioie che ha vissuto lui. È chiaro che tutti i bambini, i ragazzini, i giocatori anche della prima squadra di questa società mi chiedono di tutto quello, il mio passato professionistico. Ne parlo del mio passato professionistico perché è giusto che ne parli, perché come ho detto prima fa parte anche di questa società, però ne parlo poco perché non voglio che loro pensino. Io posso raccontare degli aneddoti con Maradona, con Giordano, con tutti i miei compagni, ma rimangono aneddoti e io ne racconto pochi perché voglio che i miei giocatori, specialmente la prima squadra, si calino nella loro dimensione, come è giusto che sia, come mi sono calato io nella dimensione di questa società e di questa squadra, anche loro si devono calare in questo. E poi davanti a una, torno a ripetere, un bel piatto di spaghetti, una bottiglia di birra, qualche aneddoto si può raccontare. E ne avrebbe tanti da raccontare Claudio Garella. Intanto non sono molti i portieri che riescono a vincere due scudetti con due squadre diverse e con due squadre che lo scudetto non l'avevano vinto prima. Quindi chapeau a un grande del calcio che rimane ancora oggi a contatto con il calcio, perché il colpo d'ala, se ci sono due porte e un pallone, lo puoi dare su qualsiasi campo. Queste sono le nostre storie di vite comuni e straordinarie di persone che in qualche modo sono riuscite a cambiare il loro destino. Aspettiamo che voi ce ne segnaliate altre perché noi le racconteremo. Scrivete via mail a ilfalcoilgabbiano@radio24.it. Ciao, a domani. Lanciati sulla fascia, cross al centro, Zozzi, Garella di ginocchio in calcio d'angolo, incredibile. Turchetta si appresta al corner dalla banderina, siamo ancora sul 0-0 al San Paolo di Napoli, tra Napoli e Lesena. Ecco che Turchetta prende la rincorsa e parte il tiro scadente, Garella di modo di piede. Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti.